Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo mercoledì 22 maggio 2024, naturalmente sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna di Radio Città Fujiko. E altrettanto naturalmente potete trovarci sul web scaricando l'apposita app, scaricandola gratuitamente. App che potete trovare sul nostro sito Radio Città Fujiko senza accento.it. È il mercoledì alle 10.30 del mattino, è l'ora di Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo che vi fa ascoltare registrazioni effettuate nel corso degli anni di ogni genere o quasi musicale. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità. Oggi abbiamo una veramente succulenta da parte di un personaggio che non esito a definire storico. Lui si chiama Henry St. Clair Fredericks Jr., ma per gli amici si fa chiamare Taj Mahal. È un grandissimo, grandissimo bluesman, anche se bluesman è un po' riduttivo, diciamo che è un musicologo a tutto campo, a 360 gradi. Lui arriva da New York City, da Harlem, ed è nato è nato musicalmente nel 1964. Nello stesso anno però si è trasferito in California per formare una band che si chiamava Rising Suns insieme a un tale Ray Cooder, che spero voi conosciate e apprezziate. Naturalmente da quel momento ha fatto un sacco di album sia dal vivo che in studio, e l'ultimo album live è quello che vi propongo oggi. Si chiama Swinging Live at the Church in Tulsa. Tulsa è la città che ospita questo, in Oklahoma naturalmente, la città che ospita questo studio di registrazione con annessa saletta da concerti, che è stata creata da Leon Russell, che alcuni di voi conosceranno per essere stato il pianista di quel branco di matti che rispondeva al nome di Mad Dogs and Englishmen, ma non solo quello, aveva una carriera solista molto molto interessante, molto apprezzata. E ha fatto anche lui un sacco di album, un sacco di collaborazioni con Elton John, con tanti, un grandissimo che ci ha lasciato oramai qualche anno fa. E in questo church, perché è proprio all'interno di una vecchia chiesa sconsacrata, nel novembre del 2023 Taj Mahal e la sua band ha registrato questo album che si chiama, lo ripeto, Swinging Live at the Church in Tulsa. Ci andiamo ad ascoltare subito un super classico della musica blues che si chiama Corinna. Bird, what a whistle, baby got a bird, honey got a bird, baby got a bird. Honey got a bird was sang. Oh, without my Corinna, she don't mean a natural thing. I learned to love you call your name. Baby boy, I call, mama boy, I call your name. Wouldn't trade your love for money, baby, you're my warm heart, honey, my love life, man. On my horn, honey, on my horn, up soon. Oh, baby, on my horn, up soon. Got a rainbow around my shoulder. In the back, say, oh, mama, honey, shine a Klondike. And where you stay, mama, where you stay last night. Baby, where you stay, honey, where you stay last night. Oh, your shoes weren't buttoned, just wasn't looking, just weren't looking right. Tell the world I do. Never tell the world, the world I do. And I'm a man in 14 counties. Love a baby daddy the way you do. Nuovo album live per Taj Mahal, accreditato a dire il vero a Taj Mahal Sextet, e Swing Live The Church in Tulsa, un brano che ci siamo ascoltati, Corina, che è un brano molto controverso, nel senso che in certe occasioni si trova accreditato a Taj Mahal e Jesse Davis, che era un chitarrista di origine indiana molto bravo, che ha suonato con lui tanti anni e che è scomparso qualche anno fa oramai, oppure più facilmente come Traditional, oppure ancora una volta come Williams Chatman Parrish. Insomma, è una canzone che ha diverse paternità e anche diversi titoli. Quello che ci siamo ascoltati si chiama Corina, scritto proprio così, Corina, oppure c'è Corinna con due R e due N, con solo due R, con solo due N, oppure con la E finale. Insomma, un casino, per dire la verità, però ci dà l'occasione di ascoltare dei brani in questa prima parte della trasmissione che hanno nomi di donna nel titolo e anche nel testo, naturalmente, che iniziano per la C, e in particolare all'inizio ci ascolteremo diverse versioni di questo brano, Corina, appunto. E sono molto molto emozionato, devo dire la verità, perché adesso vi faccio ascoltare il primo long play che ho comprato. Ho l'abitudine, forse pessima, di catalogare i miei acquisti, e in questo c'è un bel NB che sta per Nevio Bencivenni 1. E l'ho comprato tantissimi anni fa con i miei piccoli risparmi, e che alla standa, fra parentesi, perché allora non sapevo cosa fossero i negozi di dischi. Comunque, questo è un altro discorso. Quello che ci andiamo ad ascoltare è il primo album live di una band che si chiama, anzi si chiamava Steppenwolf, una band molto famosa che si è formata a Los Angeles, ma che aveva un paio di membri che arrivavano dal Canada. Loro sono arrivati fino al 2018, anno in cui il loro leader è scomparso, e sono conosciuti in tutto il mondo per quel brano, un anthem, un inno che si chiama Born to be Wild. Harry Steppenwolf fu registrato al Matrix di San Francisco in California il 14 maggio del 1967, e quando ancora si chiamavano Sparrow, però l'album è stato pubblicato nel 70 e accreditato appunto gli Steppenwolf in seguito all'enorme successo di Born to be Wild. In questo caso il tutto viene accreditato come traditional, e che si intitola Corina, Corina. Loro sono Steppenwolf dal 1967. Thank you. got it burn. Whistle. Baby got it burn. Honey got it burn. We'll sing. Baby got it burn. Honey got it burn. We'll sing. Without my Corina, sure don't mean, sure don't mean a natural thing. I learned to love you, baby, before I call, honey, before I call your name. Baby, before I call, honey, before I call your name. Trade your love for money. Baby, you're my warm heart. Honey, you're my low-life thing. Have mercy Baby, you're my hard luck. Honey, you're my hard luck. So Baby, you're my hard luck. Honey, you're my hard luck. So questi non ci crederete, ma erano i Fish, il loro primo tour fuori del Vermont, che era il loro stato natale, esattamente a Burlington, il luogo in cui si sono formati, alcuni di loro cresciuti, e fecero il loro primo tour nel 1988 al di fuori appunto del Vermont in Colorado, e nel 2006 è stato pubblicato un triplo dischetto che si chiama Colorado 88, che racchiude queste prime registrazioni. Come ti ho sentito, non c'è ancora proprio il suono dei Fish, è un blues ottimo, suonato benissimo, ma diciamo abbastanza anonimo. Il brano naturalmente si chiama Corinna, è accreditata questa versione a Taj Mahal e Jesse Davis. È stata registrata a Roma Bar di Telluride in Colorado appunto il 5 agosto del 1988. Well, it's obviously time. E qui c'è una serie di chiacchiere fra loro e lo scarsissimo pubblico del Roma Bar di Telluride. Ma andiamo avanti, andiamo a concludere prima della pubblicità con un grandissimo della musica blues che purtroppo ci ha lasciato oramai 41 anni fa, e si chiamava McKinley Morganfield, ma tutti lo conosciamo come Muddy Waters, nato in Mississippi non si sa quando, e però appunto ha fatto la storia della musica blues e non solo blues. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live in Chicago 1979, detta all'italiana. È stata registrata in realtà a Cary, che è un sobborgo di Chicago, non è proprio la città, ma comunque non interessa, in un locale che si chiama Harry Hoops. È stato registrato il 24 marzo del 1979. In questo caso il brano si chiama Corinne, Corinna, è accreditato a Williams, Chapman e Parrish, lui invece è Muddy Waters. Corinna, Corinna, where you been so long? Tell me, Corinna, where you been so long? I haven't had no loving since you've been gone. I love Corinna, I tell the world I do. Corinna, Corinna, where you stay last night? Tell me, Corinna, where you stay last night? You came home this morning, the sun was shining bright. Concludiamo questa piccola carrellata di Corinna con quella più anomala, diciamo, no? Non c'entra niente rispetto a quelle che vi dicevo prima, ma questa è firmata da Box Lanson & Shaw, che all'epoca, sto parlando del 1987, facevano parte degli Uriah Heep. A dire il vero, Mick Box, che è il chitarrista, ne è ancora parte ed è l'unico membro originale rimasto della formazione, che arriva da Londra e che è attiva dal 1969. Questa Corinna autonoma, autoctona degli Uriah Heep, è stata registrata a Mosca nel corso di 10 concerti consecutivi che hanno fatto nel dicembre del 1987, ed è tratto appunto dall'album che si chiama Live in Moscow. Andiamo quindi con altri nomi di ragazze. Tengo a precisare che, come avrete già capito, ancora una volta non andremo nel particolare del testo, perché sennò ci ascolteremo solamente 3 canzoni, sì e no, ma vi invito ad andare a cercarli, perché alcuni sono veramente molto interessanti. Il testo di Corinna cambia radicalmente a seconda dell'attribuzione, ma è sempre molto interessante. Qui invece andiamo sempre con la lettera C, con un altro nome molto molto noto, molto gettonato, diciamo così, che è Caroline. Anche in questo caso tantissimi brani e diverse versioni di questo nome, c'è quello scritto Caroline o quello che ho scritto Caroline con la Y, senza Y, e mettetene tutte quelle che volete. Ci andiamo ad ascoltare adesso una Caroline, c'è scritto proprio così, da parte di una band che si chiamava Concrete Blonde. È stata attiva dal 1982 al 2012, sempre sotto la guida di Jeanette Napolitano, che è cantante e bassista di questa band, che ne era anche la leader. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, appunto Caroline, è stato registrato in Brasile e appunto viene da un doppio album denominato Live in Brazil nell'agosto del 2002. Loro erano Concrete Blonde. You kept your life in. I knew that it would come to that someday. saw you in the store today. It doesn't matter whose address you're listed under. I only know you'll never stay. E questo era Caroline, scritto con la Y, uno dei brani di punta della carriera di Steve Wynn, grandissimo personaggio, leader dei Dream Syndicate naturalmente, ma qui in versione solista insieme alla sua band che si chiama Miracle 3. Il tutto viene da una registrazione della serie Official Blue Rose Bootleg Series. La Blue Rose è una casa discografica tedesca che pubblica un sacco di cose interessanti, fra cui appunto questo che come titolo ha solamente il luogo e la data di registrazione, Burgerhaus Heilbronn, che è la città, in Germania naturalmente, il 3 aprile del 2003. E vi consiglio di andare a vedere il sito della Blue Rose perché è veramente molto interessante. Vengono da Rockford, che è un altro sobborgo di Chicago, come del resto quello di prima, dove eravamo insieme a Muddy Waters, del quale non ricordo più il nome, ma comunque sempre della grande Chicago, e arrivano dal 1973, si chiamano Cheap Trick ancora adesso, e sono famosi, a parte per le loro canzoni, anche per la pazzia insita nel chitarrista che si chiama Rick Nielsen, che ha le chitarre più strane del mondo, alcune anche con 5 o 6 manici, una cosa assolutamente incredibile e assolutamente insuonabile, credo. Comunque lo fa per avere delle foto sui giornali dal suo punto di vista. Music for Hangovers è l'album che ci andiamo ad ascoltare, è stato registrato al Metro di Chicago, quindi praticamente nella loro città, il 30 aprile del 1998. Il pezzo si chiama O Caroline, scritto O Caroline. E non si può sbagliare, come nel caso degli CDC, hanno sempre la stessa canzone, si chiamano Status Quo e sono attivi dal 1962, ripeto, secolo scorso, metà del secolo scorso, con Francis Rossi, che è l'unico membro originale rimasto. Si chiama Live Quo, l'album che ci siamo ascoltati, registrato a Birmingham, al Saddam Park, in occasione del 25esimo anniversario di Radio 1 FM, una grande kermesse, c'erano 125.000 persone ad ascoltare gli Status Quo e questa Caroline. Uno strumentale che si chiama Queen Bee, brano attribuito al Taj Mahal Sextet, che è titolare di questa novità che vi propongo quest'oggi, Swinging Live at the Church in Tulsa, ed è tutta però farina del sacco di Taj Mahal, appunto il leader di questo sestetto che è titolare di questo ottimo album che spazia un po' in tutto lo spettro musicale, a parte il rock duro, a dire il vero. E il tutto è stato registrato al CERCH, lo studio che creò, per meglio dire, Leo Russell tantissimi anni fa, all'apice della propria carriera, e che dopo la sua scomparsa naturalmente ha proseguito la propria carriera. Il tutto è stato registrato nel novembre del 2023 e il brano, lo ripeto, si chiama Queen Bee. Said I'm tired of living and doing my time. È stato questo ad iniziare la seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che vede sempre in azione Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, ancora una volta tantissime cose, e ancora una volta, a costo di essere tedioso, il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. I might give you 99. E iniziamo dal 1972 con una band che ebbe tantissimo successo anche in Italia a cavallo degli anni 70, con un brano in tutto il mondo conosciuti, gli Guess Who sono conosciuti per questo brano, si chiama American Woman naturalmente, ma non è questo che ci andremo ad ascoltare, perché in questo Live the Paramount, che è l'album che dal quale ci ascolteremo il brano che segue, e in questo album, dicevo, American Woman dura un quarto d'ora, quindi non mi sembra il caso di togliere spazio ad altri. E ci dovremmo ascoltare invece un brano che si chiama Running Back to Saskatoon, da questo album appunto, che è stato il primo album live dei Guess Who, un primo album live, sto parlando naturalmente di vinile, perché è stato pubblicato nell'agosto del 1972 con 7 pezzi, poi è stato riedito in CD nel 2000 con 6 canzoni aggiunte. Quindi ci andiamo ad ascoltare tutto registrato al Paramount Theater di Seattle il 25 maggio, scusate, il 22 maggio, sono già un po' avanti con i tempi, il 22 maggio del 1972, il brano si chiama, lo ripeto, Running Back to Saskatoon. There's a province up in Canada that's right next door to ours, it's called Saskatchewan. And in that province is a small town where nothing much ever happens, called Saskatoon. This a tune about that town, it's called Running Back to Saskatoon. We'll be right back. been talking to soil farmers. I've been working on land. Erano Guess Who dal 1972, Paramount Theatre di Seattle, il brano si chiamava Running Back to Saskatoon. Andiamo avanti al 1980, cambiamo completamente genere musicale, siamo insieme a una grande band purtroppo misconosciuta, vengono da Leeds, sono attivi dal 1976, si chiamano Gang of Four e malgrado il chitarrista, che era uno dei tratti distintivi della band, Andy Gill, sia morto nel 2020, appunto la band continua. 100 Flowers Bloom è un doppio CD antologico che però comprende alcune canzoni dal vivo inedite, tipo questa Hunt Tracks che ci andiamo ad ascoltare, registrata al North American Indian Center di San Francisco, California, nel 1980. Thank you. like a case of anthrax. And that's the thing I don't want to catch. And to control the world that is in my mind. Nothing is there but sunshades on the blind. Only yesterday I said to myself, the things I'm doing I'd give all my help. And I feel like a beetle on its back. And that causes a bad thing. It was too late for me to start off love. It gets you like a case of anthrax. Individualism. And that's something I don't want to catch. Basically out of court. È stato registrato al North American Indian Center di San Francisco il 22 maggio del 1980, questo album che vi propongo quest'oggi e che comprende questa Anthrax registrata live. Spero che il nome Santana non sia sconosciuto a nessuno, perché è da tantissimi anni sulla scena, sempre con grande, grande passione. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Sacred Fire Live in South America, ma per amore di verità bisogna dire che non è stato assolutamente registrato in Sud America, bensì in Messico, che fino a prova contraria non è in Sud America ma nell'America centrale. Comunque il tutto registrato al Palazzo dello Sport o il Palacio de los Deportes di Mexico City il 22 maggio del 1993. Il brano che ho scelto per voi, forzatamente a causa del tempo, a causa di un problema di tempo, si chiama Viva la Vida. Lui è Santana, abbiamo detto, dal 1993. Viva cast a guy I used to know. Is it turning now to show that the long way to be rub it off on me? Guess we're never gonna be friends. I'd love to tell my back and everything I've preached for years. Bet that's the right one. Because the guy I used to know is returning now to show. E finì in un tripudio di feedback il concerto del 22 maggio del 2005, scusate, che i Cribs tennero in quel di Leeds, al Cockpit per essere precisi, di Leeds. Cribs è una band, un trio che viene da Wakefield, Gran Bretagna naturalmente, ed è attivo dal 2001, è una delle punte di diamante dell'alternative rock britannico. Sono fra l'altro tre fratelli, di cui due gemelli, e una cosa che capita che ci siano tre fratelli, ricordo Los Lonely Boys e altri. E tra l'altro, per curiosità, dal 2008 al 2011 al proprio interno, come chitarra aggiunta o chitarra solista, mettetela come volete, c'era Johnny Marr, c'è stato Johnny Marr degli ex Smiths, perché si erano già sciolti, però è durato solamente 3 anni, poi sono ritornati a essere un trio. New Fellows è il secondo album della band, è stato pubblicato nel giugno del 2005 e c'è una deluxe edition limitata che include appunto un CD live registrato al Cockpit di Leeds nel 2005. Il brano che ci siamo ascoltati è il brano conclusivo del concerto, appunto, si chiama Wrong Way to Be. Attraversiamo l'oceano, arriviamo a Chicago, città, anzi partono da Chicago, a dire il vero, gli Steepwater, che è la band che ci andremo ad ascoltare, si chiama in realtà Steepwater Band completamente. Sono attivi tuttora dal 1998, a volte come trio, a volte come quartetto con due chitarre, sono loro a decidere. L'album che ci andiamo ad ascoltare è il secondo album live della loro discografia, si chiama Live at the Double Door, appunto registrato a Chicago, la loro città natale, in questo caso come trio per essere precisi. Fra l'altro uno degli album live si chiama Live Half in the Bag, è stato registrato sì dal vivo ma senza audience durante il periodo tragico della pandemia. Ma lasciamoci alle spalle queste tristezze e andiamo appunto con la Steepwater Band, che ci fa ascoltare un brano che si chiama Far Away, era il 22 maggio del 2010. This is called Revelation Sunday. You gotta bring tomorrow. Don't be afraid. Revelation Sunday song. Well, you been chosen. I've been fine. So don't take long. Don't take. Today's the kind of day where your worries slip away into the dark. All those helping hands found the truth, they understand we are free in this life. Revelation Sunday song. Chosen, I've been found, so don't take long to come on me home. There's no need to run. I'm dead, alone. fixing all your ground. Well, change is not your end, just our start with some new friends. We gotta get together, we gotta turn around. Revolution, song me, song. Well, you have chosen, I've been fine, so don't take long. Ancora una volta, dopo tutti questi anni, quando sono indeciso fra due brani da trasmettere, ne annuncio uno e invece faccio ascoltare quell'altro. Infatti io ho annunciato Far Away, ma come ci ha detto lo stesso leader degli Steve Water Band, il brano si chiama Revelation Sunday. Me ne scuso naturalmente, io la chiamo sindrome di Nevio, è una sorta di disfunzione cerebrale che mi colpisce abbastanza spesso, purtroppo. Comunque questi erano gli Steve Water Band, il brano parte, il titolo sbagliato, era da questo album che si chiama Live at the Double Door, pubblicato lo scorso anno, ma registrato addirittura nel 2010. Andiamo a concludere con sempre con Record Today, con un'altra band emergente nel panorama jam americano. Non è molto conosciuta alle nostre parti, si chiamano Mount Joy, ma prima di questo devo ricordarvi che vi siete ascoltati 2 ore di musica live ogni mercoledì dalle 10.30 sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. E mi scuso, la qualità della trasmissione di oggi non è stato un granché, sempre che ci sia una qualità in questa trasmissione, ma vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre con musica live, sempre, sempre Radio Città Fujiko 103.1 e sul web con l'apposita app. Bon Joy si chiama la band, è un quintetto che arriva da Philadelphia, come dicevo è in ascesa nelle quotazioni della critica e del pubblico jam americano. Loro sono di Philadelphia ma vivono oramai stabilmente a Los Angeles. Live Red Rocks è una cosa che trovate solamente come scarico sul web da bandcamp.com, non c'è supporto fisico. È stato registrato il 22 maggio del 2021, vi lascio in compagnia di loro, stavolta studio per Benino, perché è facile anche il brano che ci andiamo ad ascoltare, è quello che dà il titolo alla band, si chiama Mount Joy appunto. 22 maggio 2021, ciao a tutti da Nevio. Your feet on the festival ground.